sole sembra coperto dalle nuvole. Allunga la mano e sposta un po' più in là. Quando il mondo sembra un posto scuro, allunga la mano e accendi la luce. Quando la nave sembra assopata e la distanza sembra infinita, cartina è andata perduta, tu ricorda che devi essere qua, tu ricorda che devi essere qua, ma non piangere, che sarò sempre qua, sempre qua, sempre qua con te. Se il vento per strada gela le ossa, nessuno che in giro alza la testa, se ogni cosa sembra opposta a quello che ritenevi giusto, oltre la porta la felicità, nessuno la vede, nessuno lo sa, che non serve poi l'America per trovare quello che ti salverà, per trovare quello che ti salverà, ma non piangere, perché sarò sempre qua, sempre qua, sempre qua con te. Sempre qua, sempre qua, sempre qua con te.